24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovate in questa nuova edizione di 24 ore in Europa da Roberta Pellegatta. La situazione è grave, dobbiamo fare ancora molto nel futuro, così il presidente della Commissione europea Barroso ha chiuso l'intervento al Parlamento europeo sui 6 mesi di presidenza di turno danese. Dopo l'accordo di Bruxelles ora si deve fare i conti con le resistenze di Olanda e Finlandia che diranno no allo scudo antispread. Quanto potrebbero pesare? Anna Migliorati ha girato la domanda ad Antonio Poglio Salimbeni a Bruxelles. Ma direi che intanto non siamo di fronte proprio a un no preventivo, ma il segnale politico chiaro, netto, i due paesi l'hanno dato. Teniamo conto che da sempre nella storia della gestione della crisi Olanda e Finlandia hanno fatto da battistrada le posizioni tedesche. Nulla ci dice che la Germania è d'accordo, ma certo fa pensare la storia che c'è alle spalle. L'ipotesi quindi secondo te potrebbe essere quella di una Germania che manda avanti Olanda e Finlandia? Ma direi che è presto per dirlo, dovremo aspettare intanto la riunione dell'Eurogruppo lunedì prossimo a Bruxelles per capire. È chiaro che la cancelliera Angela Merkel è in forte difficoltà, ma è anche evidente, e così è stato percepito dai mercati e dal mondo intero, che l'accordo per gestire la crisi del debito sovrano e la crisi bancaria nell'Eurozona è stato deciso nel consenso generale, all'unanimità dei 17 capi di Stato e di Governo. Sarà difficile possano smentire se stessi così platealmente alla luce del sole. In ogni caso, forse, penso che sia arrivato il momento di aiutare la cancelliera tedesca in questa fase difficile per tenerla stretta, appiccicata all'accordo raggiunto di fine settimana, e forse un'idea potrebbe essere quella di affidare la guida dell'Eurogruppo al ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble al posto di Juncker. Potrebbe essere un buon incentivo per la Germania. Grazie ad Antonio Poglio Salimbeni. E della resistenza di Olanda e Finlandia ha parlato ieri anche il premier Mario Monti, che al Senato ha presentato il vertice europeo che si è tenuto a Bruxelles. Finlandia e Olanda hanno una certa insofferenza per questi meccanismi di stabilizzazione e che quindi probabilmente avranno delle opposizioni che cercheremo di sormontare. Dopo l'intesa di Bruxelles, gli eurobond non sono più un tabù, ha sottolineato Mario Monti, che ha molto parlato di Europa e di crescita. L'Europa non può rappresentare solo un'autorità dotata di poteri di integrazione negativa. Un corsetto di regole, meccanismi di allerta, procedure di monitoraggio e sanzioni. L'Europa deve anche essere un vettore, un motore di integrazione positiva che stimola gli Stati membri, apre speranze, propone soluzioni comuni. Da questo punto di vista possiamo dirci soddisfatti dei risultati di questo Consiglio europeo. È stato raggiunto l'accordo su un patto per la crescita e l'occupazione che completa il Fiscal Compact e contiene una serie di iniziative che daranno un sostanziale stimolo all'attività economica e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Nuova seduta al rialzo sui mercati europei. Francoforte ha guadagnato l'1,26%, Londra è salita dello 0,83%, Parigi ha chiuso con un più 0,96%. Ancor meglio ha fatto Piazza Affari. Altra giornata positiva per le borse europee, che hanno registrato un'accelerazione sul finale di seduta, complice il buon andamento di Wall Street e dei comparti auto, energia e materie prime. Gli investitori scommettono su nuove misure di stimolo all'economia da parte delle banche centrali. In particolare in Europa le attese sono per un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della BCE, che si riunirà giovedì prossimo. Milano ha registrato una delle performance migliori nel vecchio continente e con un balzo dell'1,30% ha portato a più 11,7% i guadagni realizzati nelle ultime 5 sedute. A guidare gli acquisti sul FTSE MIB è stata Fiat più 5%, che ha festeggiato il giugno di vendite record per Chrysler negli Stati Uniti e l'incremento della quota 61,8% nella controllata americana. FTSE Unice più 4,2% ha beneficiato del buon andamento del comparto europeo, mentre le utility hanno risentito delle discrezioni su un possibile blocco delle tariffe di acqua, luce, gas e trasporti per 18 mesi. Snam ha perso così il 2,4%, Terna l'1,5% e Atlantia lo 0,70%. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. È prevista nel novembre 2014 la missione che vedrà la prima donna italiana nello spazio, l'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Samantha Cristoforetti, capitano dell'aeronautica militare italiana, raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navetta russa Soyuz per una missione di lunga durata. Sentiamo il commento a caldo della nostra astronauta al microfono di Gigi Donelli. Sicuramente l'espressione di grande gioia per la possibilità di poter concretizzare anni di addestramento che ormai ho dietro di me e gli anni che verranno e tanta gratitudine nei confronti delle istituzioni che mi hanno voluto mostrare la loro fiducia assegnandomi a questa missione, quindi l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Aeronautica Militare. 2011 entra nel Corpo Astronauti, 2014 la missione, sa già cosa andrà a fare in orbita? Allora avrò un ruolo che è duplice, quindi nella fase di lancio e di avvicinamento a tracco alla stazione, poi all'incirca sei mesi dopo di rientro sul velivolo Soyuz degli amici russi sarò ingegnere di bordo, quindi la figura che ha la conoscenza più approfondita dei sistemi del veicolo spaziale e che deve essere in grado di supportare il comandante nel gestire soprattutto eventuali situazioni non nominali o di emergenza, e questo è molto già definito. Per quanto riguarda invece il periodo di permanenza a bordo della stazione, insieme agli altri 5 membri di questo equipaggio internazionale avremo un programma scientifico da portare avanti che però solitamente viene delineato nel concreto quando si è un po' più vicini alla data effettiva di lancio. Sicuramente però verterà su quelli che sono i pilastri della ricerca in microgravità, quindi le scienze della vita, la fisiologia umana e le scienze fisiche. Qualche consiglio da chiedere ai colleghi, chi ha magari avuto già questa esperienza di lunga permanenza? Sicuramente è importante chiedere ai colleghi le cose di vita pratica sulla stazione che magari fanno meno parte del programma di addestramento formale ma sono altrettanto importanti, quindi ne so, qualcosa che è importante portarsi, in che modo organizzavano il loro posto di lavoro, le cose che magari avrebbero voluto avere e si sono dimenticate di portarsi perché nessuno le aveva detto, non ci avevano pensato, quindi sono un po' quei consigli di vita pratica che appunto è importante chiedere agli astronauti e veterani al rientro. Per fare le valigie, tra virgolette, c'è ancora tempo, ma adesso cosa succede da qui al momento della partenza? Allora, sono 2 anni e mezzo che passano davvero velocemente perché sono molto intensi. Io continuerò a vivere un po' con le valigie in mano, quindi a spostarmi nei vari centri di addestramento, soprattutto Houston, quindi il centro di addestramento della NASA e la Città delle Stelle, ma anche in parte addestramento a Colonia e in Giappone, l'addestramento in Canada già l'ho completato. Quindi la vita dell'astronauta in addestramento per un volo sulla stazione spaziale è la vita un po' del nomade, sempre un po' con la valigia in mano, vivendo negli aeroporti. Ahimè, ho scoperto di essere una persona che si adatta con grossa difficoltà ai cambiamenti di fuso orario, soffro molto il jet lag, quindi questa è la maggiore difficoltà che prevedo per i prossimi 2 anni e mezzo. Andiamo in Francia, perquisiti casa, studio legale ed uffici dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, le perquisizioni nell'ambito dello scandalo delle mazzette alla politica della miliardaria Lilian Bettencourt, erede L'Oréal. L'indagine riguarda fondi che sarebbero stati versati dalla Bettencourt a Sarkozy per finanziare la campagna presidenziale del 2007. E in Francia le coppie omosessuali potranno sposarsi e adottare bambini a partire dal primo semestre 2013, lo ha detto il primo ministro francese nel corso di un discorso programmatico in Parlamento. E anche Facebook riconosce le unioni gay. Ha infatti creato un'apposita icona per le persone dello stesso sesso che si dichiarano sposate sul social network. La novità è in coincidenza con il matrimonio di Chris Hughes, uno dei cofondatori del social network nel 2004, con il suo compagno Sean Eldridge. Tutte le automobili dell'Unione Europea dovranno presto essere dotate di un sistema salvavita che, chiamando automaticamente i soccorsi in caso di incidenti gravi, potrà salvare 2.500 vite all'anno. È la richiesta avanzata dal Parlamento Europeo in una risoluzione approvata a larga maggioranza a Strasburgo. Ad oggi il dispositivo eCall è installato soltanto sullo 0,4% dei veicoli, denunciano gli eurodeputati, che chiedono alla Commissione Europea di presentare una legislazione che preveda l'obbligatorietà del sistema a partire dal 2015. Si stima che il salvavita accelererà l'arrivo dei soccorsi del 40% nelle zone urbane e del 50% nelle aree rurali, riducendo il numero di feriti gravi del 10-15%. E grande apprensione per Maria De Villota, vittima di un incidente nel corso del collaudo della sua vettura che partecipa al mondiale di Formula 1. La 32enne spagnola, che stava provando la monoposto, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un mezzo parcheggiato a lato del tracciato. La De Villota è stata ricoverata in ospedale, ma per fortuna, dopo i primi attimi molto concitati, sembra che non sia in gravi condizioni. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia e a voi per averci seguito. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa. in collaborazione con Euronet.